Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata. Come sempre, amo ripetere, se ci ascoltate in replica alle 20.45, vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore Online oppure digitando un motore di ricerca Guardie o Ladri. Come ogni estate, si ripropone nuovamente il problema della possibilità di ricorrere con facilità alle guardie mediche. Questo accade soprattutto nelle grandi città, che magari rimangono scoperte per turni di ferie dei medici, e nei centri di vacanza, quindi nelle località balneari piuttosto che in quelle montane. Ogni anno è sempre la stessa storia. È difficile riuscire ad avere delle guardie mediche che siano in grado di garantire il servizio. Ma è difficile anche averle spesso durante la ordinaria vita quotidiana. E noi vogliamo cominciare ad affrontare questo tema, il tema della guardia medica, proprio partendo da un'esperienza personale di un radioascoltatore che ci aveva scritto già nel gennaio del 2009. Come vedete, cari radioascoltatori, non buttiamo via mai i vostri suggerimenti, le vostre proposte e le vostre idee. Bisogna soltanto avere un pochino la pazienza di aspettare il momento giusto in cui queste proposte, questi suggerimenti possano concretizzarsi in piccoli servizi o mini inchieste come stiamo facendo ora. Il radioascoltatore che ci ha testimoniato la sua disavventura con una guardia medica, o meglio con il servizio di guardia medica, è Nicola Silvano Lassandro, che ci ha scritto da Roma. Buongiorno Lassandro. Buongiorno a lei, dottor Galullo, un saluto anche agli ascoltatori. Può raccontarci sinteticamente, è ovvio, la sua disavventura, diciamo, con il servizio nella capitale? Allora, guardi, brevemente è accaduto questo. Quindi nella mattinata di domenica 18 gennaio mi sono svegliato con i sintomi di una faringite. E quindi, chiaramente, essendo domenica e non avendo un medico di base a disposizione, ho cominciato ad informarmi per trovare un medico di guardia. Ho cominciato a fare qualche ricerca su internet, ho trovato un numero a cui rivolgersi e ho cominciato a chiamare. Avrò fatto non meno di 20 chiamate, ma ogni volta mi lasciavano in attesa perennemente per minuti. Certo, senza darle una risposta. E giustamente lei, a quel punto, sfiduciato, si reca dove? Nel punto più logico, è domenica, in una farmacia, che vai già a trovarla, una farmacia aperta, ma questo è un altro discorso. E in farmacia che cosa le dicono? Questo è un problema. Oh, guardi, in farmacia ho chiesto sia il farmacista, i suoi inservienti, anche i clienti che erano presenti in quel luogo, ma nessuno ha saputo darmi indicazioni, tranne la farmacista, che anche lei a sua volta mi ha ridato il numero di telefono famoso che io avevo già scoperto. Ma lei, senza che io dicessi nulla, mi ha già anticipato che a quel numero di telefono non risponde nessuno, è totalmente inefficiente, ma anzi mi ha consigliato come estrema razio di rivolgermi a una guardia medica privata, cosa che mi ha fatto un pochino insospettire. Certamente. Allora, insomma, si potrebbe intitolare questa puntata Guardia Medica questa sconosciuta, se non fosse banale il titolo, ma in realtà così sembrerebbe essere. Allora, noi abbiamo sentito questo racconto. Accade in una domenica, 18 gennaio, forse ci saranno le ricadute delle ferie natalizie, forse sì, forse no. Accade in una grande città dove forse è difficile organizzare il servizio, visto la vastità del territorio, e anche qui, amo ripetere, forse sì, forse no, faccio finta di crederci, ma probabilmente in un paese civile così non dovrebbe essere. Allora, per capire qualcosa di più di questo tema, abbiamo chiamato e chiameremo nel corso di queste puntate dei dottori, dei medici che si prestano e che svolgono il servizio di guardia medica. Ma abbiamo sentito anche persone che hanno un certo ruolo anche nelle associazioni che raggruppano i medici. È il caso, infatti, del dottor Marco Di Clemente, al quale do il buongiorno. Buongiorno a lei. Che è responsabile provinciale, ci troviamo in Abruzzo, a Chieti, quindi è responsabile provinciale a Chieti della FIMMG. CA. Allora, la sigla e l'acronimo è bestiale, cioè vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ve lo spiego in italiano. È la federazione che raggruppa i medici di medicina generale, in questo caso in continuità assistenziale, vale a dire che raggruppa sotto la più ampia squadra dei medici di medicina generale coloro i quali si dedicano appunto alle guardie mediche nei giorni festivi, l'abbiamo detto, e soprattutto nelle ore notturne. Allora, dottor Di Clemente, ha sentito il racconto del nostro radioascoltatore Lassandro a Roma. Perché secondo lei questo accade? Perché è una grande città o perché c'è qualcosa da rivedere nel sistema e nel funzionamento di queste guardie mediche? Dunque, per entrambi i motivi, ovviamente io non conosco la realtà di Roma se non per sentito dire. È ovvio che in una qualsiasi postazione di guardia medica può succedere che quando telefoni il medico sia uscito per andare a fare delle visite domiciliari, quindi basta richiamare e prima o poi lo trovi. Quando ci si trova in una grande città, mi ha fatto riflettere il fatto che il signore abbia parlato di essere stato messo in attesa, quindi vuol dire che non c'era una guardia medica dove non rispondeva nessuno, ma come so che succede a Roma c'è addirittura un centralino, e questo centralino è stato messo proprio perché per evitare che queste cose non accadano. Se è stato messo in sospeso dal centralino, c'è evidentemente qualcosa da rivedere a livello di funzione organizzativa della ASL. Assolutamente sì. Il problema potrebbe essere invece spostato in zone dove comunque, mentre a Roma in sede ci sono diversi medici, prendiamo una cittadina dove piccola, dove c'è un solo medico in servizio e quindi bisogna tenere presente che potrebbe essere riuscito, però spesso noi si fa in modo di chiedere alle ASL che ci sia un trasferimento di chiamate, assolutamente, una segreteria telefonica. Ecco, allora spostiamoci dalla grande città al piccolo centro, piccolo medio centro, come quello di Chieti, che però in estate vive di un boom turistico non di secondo profilo, anzi, e nel frattempo colgo l'occasione per invitare gli italiani a visitare l'Abruzzo, terra devastata dal terremoto, soprattutto all'Aquila, ma regione splendida. Ecco, a Chieti, lei che poi è responsabile provinciale della sua provincia, appunto, che cosa accade? Come siete organizzati e soprattutto giungono anche voi segnalazioni come quella del nostro radioascoltatore di inefficienze, di disservizi nel vostro servizio, appunto? Bisogna capire come funziona il rapporto con i turisti. Allora, per quanto riguarda la provincia di Chieti, lasciamo perdere i centri più grandi, ma parlo delle città sul mare, le cittadine che d'estate si riempiono di turisti. Fino a qualche anno fa le ASL mettevano quella che si chiama guardia turistica, cioè dei medici che sono deputati esclusivamente ai bisogni dei turisti. E colgo l'occasione per dire agli ascoltatori che parleremo nei prossimi giorni anche di guardie turistiche. Prego, dottor Di Clemente. Ecco, per quanto però le dico che il discorso guardia turistica oggi come oggi è sorpassato, perché in rapporto alle problematiche economiche che ci sono, lei sa benissimo del deficit abruzzese, siamo sotto un piano di rientro, nell'ambito dei risparmi una delle prime cose che sono state tagliate sono state le guardie turistiche. Questo non significa che i turisti non abbiano nessuno a cui rivolgersi, devono semplicemente rivolgersi di giorno ai medici di base della città, di notte alla guardia medica. Quindi tutto sommato non cambia niente. Ecco. Sento qualche volta delle perplessità da parte dei turisti, ma come facciamo? Siamo sulla spiaggia, non c'è nessuno. Ecco, allora a questo punto qui bisognerebbe far capire bene alla gente quali sono i veri compiti di una guardia medica e di una guardia turistica. Ecco, volevo proprio, guardi, mi ha anticipato nel mio pensiero e nella domanda che le avrei fatto, vale a dire quali sono effettivamente i vostri compiti, e lo chiedo anche per evitare, visto il tema anche della nostra trasmissione, possibili abusi da parte di chi chiama magari semplicemente perché ha un mal di testa o semplicemente ha urtato il piede in uno scoglio, insomma, senza procurarsi gravi ferite, voglio dire. Certo, allora parliamo per esempio della guardia turistica che fino a un pochettino di tempo fa era in tutte le zone d'Abruzzo, adesso dico tra parentesi, solamente l'ASL di Lanciano Vasto l'ha mantenuta in alcune zone, quindi esiste ancora, mentre nel resto d'Abruzzo non c'è, quindi tutte le cittadine sul mare che vanno da Chieti in su, quelle più grandi ce l'hanno. Ci si può rivolgere alla guardia turistica generalmente per prescrizioni, c'è gente che va in vacanza, non ha le medicine dietro, per problematiche tipo febbri, mal di gola, qualsiasi problema che può succedere che sarebbe di pertinenza del medico di base. Non ci si dovrebbe invece rivolgere quando ci sono delle situazioni di pronto soccorso. Per esempio, uno non so, nel caso di un problema serio, di un incidente che può avvenire sulla spiaggia, è quantomeno sciocco pensare di chiamare un medico che sta lì in un casotto da solo senza attrezzature, perché le AS non spendono una lira per attrezzare queste cose, e pretendere che poi il medico certo possa risolvere il caso. Lì non bisogna perdere tempo e chiamare il pronto soccorso. Ecco, io direi che la sua spiegazione è stata molto molto chiara, la ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio il nostro radioascoltatore da Roma, Lassandro, che ci ha lasciato la sua testimonianza. Continueremo nei prossimi giorni ancora ad affrontare questo tema e ne scopriremo delle belle anche dal punto di vista delle truffe che a volte vengono effettuate. Ringrazio in regia Filippo Aureggi e in studio Laura Faggina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.